Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Venerdì 3 settembre, ultimo giorno della prima settimana di settembre. Buongiorno a tutti voi da Antonella Cortese e un caro saluto alle persone ristrette della casa circondariale dell'Emilia Romagna e del carcere della Dozza. Bentrovati su Liberi Dentro Eduradio TV, in onda su Radio Città Fuggico, Teletricolore e Lepida TV, e un saluto, un buongiorno a Ignazio De Francesco che oggi è ancora con noi per l'ultimo giorno, prima di ripassare alla conduzione tra Caterina Bombarda e la sottoscritta. Buondì. Buongiorno, buongiorno a te e a tutti. Oggi diciamo anche Salam Aleikum, wa rahmatullahi wa barakatuh, anche tutte le persone di fede islamica, anche per i quali il venerdì è un giorno molto importante per la loro preghiera. Ignazio, hai scelto in questa settimana delle meravigliose lettere dal carcere. Oggi qual è il personaggio di cui vuoi parlare? Dunque, chiudiamo con Martin Luther King. Nasce nel 29, muore nel 68, è stato un attivista politico, pastore protestante americano, leader nel movimento per i diritti civili degli afroamericani. Nel 64 aveva ricevuto il premio Nobel per la pace e viene ucciso a Memphis il 4 aprile del 68. Ci vuoi leggere qualche stralcio di qualche lettera? Sì, prendiamo una delle lettere più famose sue, che è la lettera della prigione di Birmingham, una lettera aperta che aveva scritto il 16 aprile 63, dove, quando dal questo carcere dell'Alabama, dove era stato incarcerato per la partecipazione a una protesta non violenta contro la segregazione razziale. È una risposta a quella lettera, dichiarazione scritta da 8 religiosi, ebreo, cattolici, evangelici, tutti bianchi, i quali dicevano sì, bisogna portare avanti questa lotta che tu fai, però non nelle piazze, bisogna farla nei tribunali. Mentre King risponde che senza l'azione diretta ma non violenta come la sua non si sarebbero mai potuti ottenere dei veri diritti civili. E scrive leggo qualche riga soltanto, noi aspettiamo da oltre 340 anni di ottenere i nostri diritti sanciti dalla Costituzione e donati da Dio. Le nazioni asiatiche e africane si muovono con velocità supersonica verso l'indipendenza politica, mentre noi ancora ci trasciniamo. Forse dire aspettate è facile per chi non è mai stato ferito dalle frecce aguzze della segregazione, ma se uno vede plebaglie inferocite lasciate libere di linciare vostra madre, vostro padre, di annegare i vostri fratelli e sorelle a piacimento, se vede poliziotti pieni d'odio insultare, prendere a calci e perfino uccidere i vostri fratelli e sorelle nere, se uno vede la stragrande maggioranza dei 20 milioni di suoi fratelli neri che soffocano in una gabbia di povertà a tenuta stagna, nel mezzo di una società opulenta, se uno sente che la lingua si inceppa e la parole escono in un balbettio, e si accorge che vengono le lacrime agli occhi appena sente che la città dei divertimenti è vietata ai bambini di colore, beh, allora non può, dice Martin Luther King, esimersi da protestare per questo stato di cose. Queste erano cose che erano scritte ormai una lettera lontana, siamo nel 63. Però, come sapete, anche gli ultimi tanti eventi accaduti negli Stati Uniti dicono che è una cosa ancora attualissima il razzismo. Sì, infatti è attualissima e le sue parole, per quanto sembri paradossale, sono ancora reali. Senti, ma qual è il giudizio sulla politica della segregazione, su queste leggi razziali? Ascoltiamo a questo proposito ancora un piccolo stralcio di questa lettera dal carcere di Birmingham. Dice: tutti gli statuti del segregazionismo sono ingiusti, perché il regime segregazionista distorce l'anima e danneggia la personalità. Al segregazionista conferisce un falso senso di superiorità, a chi è vittima della segregazione un falso senso di inferiorità. Per usare la terminologia del filosofo ebreo Martin Buber, il segregazionismo sostituisce il rapporto io-tu, un rapporto io-oggetto, ossia finisce con il considerare le persone come cose. Mi sembra un passaggio veramente profondissimo. Martin Luther King potrebbe dire: i bianchi fanno ingiustizia ai neri, noi siamo le vittime. Ma dice una cosa più elevata, dice i bianchi fanno ingiustizia a se stessi. Nel momento in cui tu diventi razzista, in cui consideri l'altro appunto un oggetto, meno di te, meno dei tuoi diritti, in realtà tu fai male alla tua anima e distorci la tua stessa umanità. E quindi questa lotta contro il segregazionismo era una lotta per una guarigione collettiva del paese. Infatti, è proprio così. Ignazio, che brano vuoi lanciare? Allora, sull'onda di queste cose, su cui invitiamo tutti a riflettere, tutti quelli che ci ascoltano, e chiediamo come sempre anche i contributi di chi ci ascolta dal carcere attraverso le loro lettere, e proponiamo questo brano di Bob Marley, Redemption Song. Redemption Song, che poi è stato ripreso anche da Johnny Cash in una versione strepitosa. Ascoltiamolo. E rieccoci dopo aver ascoltato la magnifica Redemption Song di Bob Marley e per parlare, come ormai di abitudine, di un animale per il nostro venerdì animalesco. E parliamo in realtà di elefanti, però veramente io mi rifaccio ad un fatto di cronaca di cui avete sentito parlare un po' tutti, perché sapete che sono rimasti per 3 mesi in viaggio attraverso la Cina meridionale un branco di animali, di 15 elefanti, che andava lasciandosi dietro di sé una scia di danni a colture, abitazioni, man mano che attraversavano centri abitati e terreni agricoli, in un ambiente che in effetti a colpi di cementificazione, di disboscamenti, si è fatto sempre più sfavorevole per la fauna selvatica. E questi poveri pachidermi sono infine riusciti però ad attraversare il fiume Yunjiang, che da settimane continuavano a costeggiare. E fino a circa un anno fa gli animali vivevano tranquillamente nel loro habitat abituale, e in una regione nota per la sua foresta pluviale tropicale e il clima monsonico, cioè lo Xishuang Gaban. E da lì, per ragioni ancora non del tutto chiare o non se lo sono ancora spiegato, in realtà è iniziata questa lunga migrazione. E gli animali hanno vagato per tutta la provincia meridionale dello Yunnan dopo essersi trasferiti di nuovo lì a maggio. Poi è cominciata la stagione delle piogge e le cose si sono ancora più complicate perché il passaggio degli elefanti era ancora più difficile. E come li hanno aiutati a ritrovare la loro strada? Praticamente, secondo un'agenzia di stampa che si chiama Xinhua, le autorità hanno bloccato la sponda del fiume con decine di camion per impedire agli elefanti di attraversare alcune delle zone più difficili, obbligandoli così a continuare il loro viaggio verso un ponte che potevano attraversare senza difficoltà. Inoltre, le autorità locali hanno dispiegato lavoratori, camion, droni per monitorare il branco. Le strade sono state evacuate per consentire loro il passaggio in sicurezza e poi è stato dato loro del cibo per attirarli verso aree meno urbane, meno popolate, perché immaginate un branco di elefanti, di 15 elefanti, passare in un paese. Effettivamente, insomma, qualche danno lo potrebbero fare. Ma quanta strada avranno fatto questi elefanti? I 15 elefanti asiatici di varie dimensioni ed età hanno lasciato, come sai, la riserva un anno fa, hanno viaggiato per circa 500 km a nord e dopo aver raggiunto la periferia di Kunming, un centro per affari e turismo, hanno poi girato di nuovo a sud, insomma hanno fatto un sacco di strada, anche perché uno dei maschi si era separato dal branco, poi dopo si è riunito, però è stato veramente difficoltoso. Mi sembra che sarebbe degno proprio di un film questa cosa, questi 15 elefanti. E mi pare che siamo anche nella vicino, siamo passati da pochi giorni, da poche settimane, alla giornata mondiale degli elefanti. Eh sì, infatti il 12 agosto è stata la giornata mondiale degli elefanti. E c'è da dire che oggi sono meno di 450.000 gli elefanti che sopravvivono in Africa, sia l'elefante di foresta, cioè l'oxodonta africana, che quello di savana e l'oxodonta ciclotis, sono stati nel 2021 per la prima volta inclusi nelle categorie di rischio più elevato, nella lista rossa quindi dell'Unione Mondiale per la conservazione della natura. Mentre l'elefante di savana è ritenuto in pericolo, quello di foresta è in pericolo critico, quindi ancora peggio, il livello più alto dell'allarme. E le minacce più importanti per i pachidermi sono ovviamente la crisi climatica di cui abbiamo ampiamente parlato la volta scorsa e il conseguente aumento di ondate di calore e siccità, oltre al bracconaggio, che purtroppo è una pratica ancora in uso, dovuta in larga parte alla domanda di avorio. E poi anche la perdita di habitat, i conflitti con le popolazioni locali. Il bracconaggio in particolare è poi aggravato dalla sempre più diffusa presenza di gruppi terroristici che spesso gestiscono il commercio illegale di parti di animali, di animali selvatici, non solo gli elefanti, tra l'altro, importante fonte di guadagno per queste organizzazioni criminali. Insomma, per concludere, oggi si stima che il bracconaggio uccida ogni anno circa 20.000 elefanti africani, cioè il 4% della popolazione mondiale, a causa del commercio illegale dell'avorio e della criminalità organizzata. Fermiamoci qui per un po' di musica e anche per le dediche di questa giornata. Sì, oggi vorremmo ringraziare tantissimo alcune aziende che ci hanno voluto sostenere e nello specifico Pelliconi & Company S.P.A. che tra l'altro lavora ed è presente nell'area appunto bolognese, poi c'è la Morandi S.P.A. e il consorzio della carta che si chiama Comieco. E inoltre vorremmo anche ringraziare Anbal Ghulam e Serena La Ginestra. Siete stati tutti molto gentili a volerci sostenere economicamente, permettendoci di essere ancora qui con voi durante l'estate. Il brano che volevo lanciare è di una grandissima musicista che si chiama Rokia Traoré e la canzone si chiama Kenya. Banana. Ed eccoci di nuovo insieme dopo Rokia Traoré con l'intervista di Caterina Bombarda al professore dell'Università di Bologna, Luca De Cembrotto. A te Caterina. Rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro di Radio TV. L'ospite di oggi lo conoscete, è il professor Luca De Cembrotto, assegnista di ricerca e docente a contratto presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna. Buongiorno. Buongiorno a te Caterina e buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. E bentornato. Abbiamo parlato l'ultima volta delle possibilità di accesso allo studio universitario per le persone prive della libertà personale, ma anche di quale può essere il senso di investire in questa scelta di studio universitario quando si è detenuti o detenute. Oggi però vorrei andare con te un po' alle origini, cioè sappiamo che lo studio è qualcosa all'interno del carcere che si è molto modificato nel tempo a livello legislativo, quindi se volessimo avere un po' un orientamento generale di qual è la storia dello studio in carcere, in particolare nel periodo che va dal ventennio fascista col codice penale Rocco ai giorni nostri con l'istituzione della Conferenza Nazionale Universitaria Poliuniversitari. Cosa potresti raccontarci? Allora, provo a darvi così una panoramica generale dei cambiamenti che ci sono stati. Il precedente ordinamento penitenziario rispetto a quello attuale era del 1931, per cui è stato scritto prima della stesura della nostra Costituzione. Era il regolamento per gli istituti di prevenzione e pena. E all'interno di quelle che erano definite le attività disciplinari detentive, c'era l'obbligo del lavoro, l'obbligo a partecipare alle funzioni del culto cattolico e l'obbligo a frequentare le scuole istituite all'interno delle carceri. Per cui in realtà il dispositivo pedagogico, chiamiamolo così, no? Il dispositivo pedagogico che si utilizzava era di stampo disciplinante e coercitivo. Cioè l'istruzione non era orientata all'accrescimento culturale della persona e alla sua maturazione umana, ma era appunto uno strumento per disciplinare chi vi faceva accesso. Questo chiaramente è cambiato nel tempo, a partire appunto dalla nostra Costituzione, l'articolo 34, che parla del diritto allo studio, un'istruzione per tutti, ok? Recepito nell'ordinamento penitenziario nuovo, che fa un salto dal 1931 al 1975, che appunto vede nell'istruzione certamente uno dei suoi elementi principali, no? Fa parte di quello che viene chiamato il trattamento penitenziario. E assieme ancora al lavoro, però anche alle attività ricreative o all'incontro con persone esterne al mondo detentivo. Ma, come dire, il respiro è completamente diverso, perché appunto si passa da un'azione e un processo istruttivo di tipo coercitivo e disciplinante a quello che viene oggi come dire descritto come l'apprendimento permanente, per cui una crescita umana, culturale della persona, un'attività finalizzata ad affinare le capacità soggettive, a dare la consapevolezza alla persona che anche lei dà un contributo significativo nella costruzione della realtà e nella significazione di quella che è la nostra realtà sociale. Cioè, per intenderci, quello che all'articolo 27 della nostra Costituzione è il fine rieducativo della pena, in questo senso il cambiamento dalla coercizione, come dicevi tu, a invece un respiro che è proprio per la persona, l'accrescimento culturale. Grazie Luca, breve pausa musicale e ci rivediamo tra pochissimo sempre qui. Restate con noi. Come una scuola di tutte le cose, già de purrete me viste entre asombros, el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. cómo olvidar tener esta queja, cafetín de Buenos Aires. Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se lo fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntas, lloré una tarde el primer desengaño. Me hice a las penas y bebí mis años y me entregué sin luchar. Mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más. Rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro. Stiamo parlando con il professor Luca Decembrotto, come dicevo, assegnista di ricerca e docente a contratto presso l'Università di Bologna. Stiamo parlando dell'istruzione, dello studio, come è cambiato in questi anni all'interno delle carceri. Però abbiamo parlato dell'Italia, facendo invece un salto fuori dai nostri confini nazionali, andando per esempio in Argentina, cosa succede? Lì abbiamo un'esperienza diversa. Abbiamo un'esperienza diversa che entra molto in dialogo con la nostra. E perché? Perché in Argentina si è sviluppata una rete di università che portano avanti quelli che sono i centri universitari penitenziari, che è il corrispettivo dei nostri poli universitari penitenziari. Perché nasce questo tipo di esperienza? Perché nel 1985 una serie di persone private della libertà, si mette insieme per protestare e chiedere l'accesso agli studi universitari. La protesta avrà una tale potenza e un tale peso anche nell'opinione pubblica che a fine di quell'anno, quindi a fine del 1985, l'Università di Buenos Aires e il provveditorato che gestisce le carceri argentine firma il primo protocollo per la nascita del primo centro. Oggi si tratta di una rete molto, molto estesa. Io posso dirti due cose sul centro universitario di Devoto. Vai. Perché è un centro che ho visitato di persona, ho frequentato per 3 mesi e mi ha colpito per alcune caratteristiche peculiari. Intanto il fatto che si tratta di uno spazio fisico indipendente, autonomo, uno spazio universitario all'interno del carcere, dove gli agenti di polizia non entrano, tutto è gestito dall'università e da chi ne fa parte, quindi studenti privati della libertà, studenti non privati della libertà e docenti. È uno spazio a cui accedono 400 studenti privati della libertà, i quali possono entrare all'interno del centro universitario di Devoto quando vogliono, ma dato che le attività non si rivolgono soltanto agli studenti universitari, ma attraverso dei laboratori, dei piccoli corsi, anche a studenti che non possono ancora accedere all'università perché non hanno finito gli studi superiori, ci sono altri 500 soggetti, no, reclusi che entrano all'interno di questi spazi universitari non per tutto il tempo che vogliono, ma soltanto per quelle singole attività. E tuttavia lì trovano un'esperienza diversa, no? Un'esperienza di libertà, di riflessione culturale, sociale e anche, una cosa che a me ha molto colpito, esperienze di automutuo aiuto. Ne cito tre e poi chiudo. Il supporto allo studio, quindi il tutoraggio fra pari, il supporto legale, cioè gli studenti che studiano giurisprudenza fanno uno sportello di supporto legale agli altri compagni, e un sindacato che si chiama SUTPLA, un sindacato per tutelare i diritti delle persone, dei lavoratori privati della libertà. Un bellissimo quadro. Io spero che questo approfondimento con te sia anche... Cioè, in corso una riforma della giustizia. Io spero che gli altri ministeri ascoltino questa intervista, perché veramente può essere un lume di orientamento anche per lo studio in carcere, per avviare una riforma che tenga conto di questo aspetto imprescindibile. Grazie Luca, ci rivediamo la prossima volta. Grazie a voi dell'opportunità di trattare questi temi. Ciao. Ed eccoci qui per i consueti saluti, perché Liberi Dentro si ferma qui, ma ovviamente voi sapete che ci sono le nostre rubriche, e oggi, che è venerdì, dedichiamo la nostra rubrica a Islam, religione e civiltà, e ci sarà anche la ginnastica da camera. In realtà è una replica, però la ginnastica fa sempre bene e vederla una seconda volta non guasta. E sabato 4 ci sarà ancora il Teatro dell'Argine, riprendiamo le puntate proprio dell'inizio di questo meraviglioso percorso, e poi c'è la rubrica Parliamo di Buddismo e Le parole della parola, la rubrica a cura della Cappellania della Dozza. Mentre domenica 5 potrete vedere Note Libere, anche questa è una replica sulla musica, proprio una rubrica musicale, e in più ci sarà Chef al fornelletto del FOMAL. Vi ricordiamo sempre che noi siamo in onda come Liberi Dentro da lunedì a venerdì su Radio Città Fuggico, Lepida TV e Teletricolore, mentre le nostre rubriche le potete vedere durante tutta la settimana. Un caro saluto, buon weekend da Antonella Cortese, Caterina Bombarda, Ignazio De Francesco e il nostro tecnico Enea Flacco. A presto! Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.